credo che se alle prossime elezioni dovesse esserci da un lato il blocco della conservazione, cioè di chi difende lo status quo, di chi crede che le politiche degli ultimi anni del governo Monti, passando per i governi Letta, Renzi, Gentiloni, sono quelli di cui ha bisogno l'Italia, e dall'altro invece un fronte populista di cui non si capisce assolutamente nulla, che si presentasse alle elezioni proponendo di tutto, come hanno fatto nel contratto con gli italiani, ma poi assumendo evidentemente anche un tratto sotto alcuni aspetti avversivo, bisognerebbe avere la forza di conquistare una terza ipotesi. Cioè un'ipotesi che dica che la Costituzione si rispetta e si difende, anzi si applica, che le istituzioni a loro volta vanno difese a partire dalla Presidenza della Repubblica, ma che nel contempo in questo paese c'è bisogno di un'inversione di rotta a U sulle politiche. Sul primo fronte, diciamo, sul primo blocco di cui parlavi, ci sono delle dichiarazioni oggi sia di Renzi, che dice di voler fare un fronte anti-sfascisti, e curiosamente a Bologna del sindaco Merola, che pur non essendo un renziano stretto, diciamo così, usa parole simili, cioè parla di un fronte ampio per difendere la democrazia. Allora, la domanda è: la democrazia è sotto attacco e qual è l'operazione che si sta tentando? Credo che in questo momento la democrazia sia in parte sotto attacco, ma da più fronti. A me non è piaciuto e non può piacere, diciamo, l'attacco scomposto che viene fatto alla Presidenza della Repubblica da parte di Lega e Movimento 5 Stelle, indipendentemente dalle scelte del Presidente della Repubblica. Non è obbligatorio essere d'accordo, diciamo, con l'interpretazione che ha dato Mattarella dei suoi poteri, né con le sue motivazioni. Io, in particolar modo, con le motivazioni che hanno seguito la mancata nomina di Savona non sono d'accordo, ad esempio, ma non essere d'accordo è una cosa, mettere nel mirino l'istituzione anche in modo violento, sotto alcuni aspetti, è un'altra. Però noi siamo sotto attacco evidente anche di nuovo da parte della speculazione finanziaria, che vuole imporre, diciamo, un'uscita da questa crisi da destra, esattamente come si fece con il governo Monti. E io credo che esattamente come accadde con il governo Monti, quando una parte della sinistra accettò di gestire questo uscito da destra, dando vita, diciamo, al peggior governo della storia repubblicana, cioè quello che più ha fatto danni nei confronti dei lavoratori, dei più deboli in questo paese, quell'errore non si può compiere di nuovo. Ma non è che qualcuno conta di recuperare consensi elettorali con la paura dello spread da un lato e dall'altro dei populismi? Cioè, questo è il metodo? Questo probabilmente è una tentazione più che il metodo, ma è una tentazione sbagliatissima, e che io credo porterà solo acqua, diciamo, al mulino dei cosiddetti populisti. Lo vuole l'Europa veramente stancato in questo paese, e io credo che lo vuole lo spread sia ancora peggio. Non si può pensare di fare una campagna elettorale in quelle condizioni, anche perché sappiamo tutti cosa muove lo spread. Lo spread è mosso dalle scelte di pochissimi fondi di investimenti internazionali e anche dalle scelte della Banca Centrale Europea. È un fatto politico ormai lo spread, non è più un fatto meramente economico. C'è la questione dei tempi: se si torna alle urne entro breve, ci sono anche alcune simulazioni, ad esempio l'Istituto Cattaneo, che vedono un'alleanza Movimento 5 Stelle Lega sbancare. Un'alternativa avrebbe tempo per costruirsi e ricostruire, insomma, da qui alle elezioni? Io penso che i sondaggi, più che i sondaggi, le simulazioni fatte sulla base dei risultati elettorali del 4 marzo valgano molto poco. Io penso che se i 5 Stelle e la Lega dovessero decidere di presentarsi insieme alle elezioni in un'alleanza compatta, allora questo potrebbe rimettere in discussione tutto, cioè comprese le scelte della sinistra, perché io credo che una saldatura anche elettorale tra Movimento 5 Stelle e Lega sarebbe molto pericolosa, anche perché in questo quadro avverrebbe di fatto come assalto alle istituzioni, sarebbe una saldatura che avverrebbe sull'onda, diciamo, di un movimento anti-istituzionale e anticostituzionale. Io mi auguro che i 5 Stelle non facciano di nuovo l'errore di mettersi con i leghisti, cioè dopo che i leghisti li hanno presi in giro per mesi e portati a sbattere, spero che non facciano l'errore di continuare su quella strada. Io lo pensavo prima che succedesse, cioè una saldatura Lega 5 Stelle è un pericolo per questo paese, era un pericolo fuori dalle urne, è un pericolo ancora più forte se si dovesse realizzare nelle urne, ma io mi auguro che così non sarà, e che i 5 Stelle alla fine si ricordino di essere altro, diciamo, da una dépendance di Salvini, perché questo si stanno, diciamo, preparando a diventare, i 60 giorni, diciamo, che abbiamo alle spalle che lo dimostrano. Io penso che la sinistra debba stare in campo con una proposta autonoma, perché ripeto, anche al di là della sinistra, però non è neanche più, ripeto, una questione semplicemente di sinistra. È il fatto che ci deve essere un terzo spazio critico fra chi predica austerità, continuità e obbedienza cieca ai vincoli dell'Europa e del mercato, chi invece ha una chiusura tutta nazionalista, tutta sovranista, chi ha un atteggiamento rispetto alle frontiere che è quella di chiusura armata anche e soprattutto nei confronti delle persone, perché poi invece i capitali non vengono mai messi in discussione, e a chi, diciamo, comincia a dimostrare chiaramente di avere anche poco rispetto per le istituzioni e per la Costituzione italiana.